il falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Uno dei motivi per cui è nata questa trasmissione è sicuramente la voglia di raccontare delle storie uscendo dai cliché. E difficilmente mi avete sentito dire il rocker maledetto, lo scrittore tormentato, l'attricetta oca, perché la realtà è sempre molto più complessa. Noi, per esempio, in questo caso parliamo di un artista che molto spesso, come quasi tutti gli artisti, è stata racchiusa in definizioni troppo strette che non raccontano neanche un po' la realtà della sua immensa e versatile bravura. L'artista in questione è Joni Mitchell, che è riuscito a fare musica per 50 anni mantenendo una freschezza, una capacità di innovazione incredibile. Eppure, quando leggiamo qualcosa su di lei, spesso il giornalista più sprovveduto le appiccica addosso un'etichetta, cioè quella che la definisce come la maggiore rappresentante del folk confessionale, un'etichetta che ovviamente anche a Joni Mitchell non piace per niente. Confession. La confessione nella nostra cultura di solito è sia quella che si fa in chiesa quando raccontiamo i nostri peccati, sia quella che viene tirata fuori nelle stazioni di polizia. Ecco, diciamo che non mi piace essere parte di questa lista. I don't like being on that list. Eh sì, qui stiamo parlando di una grandissima musicista che ha saputo andare ben oltre il folk, spaziando in tutti i generi musicali fino ad arrivare a suonare con jazzisti, non so, del calibro di Charlie Mingus. Ha saputo scrivere testi che sono pura poesia e che, pur partendo dalla ricerca interiore, hanno sempre cercato di trovare dei punti di contatto con l'esterno, spesso parlando anche di temi sociali, ecologici, intimistici. Inoltre stiamo parlando di una pittrice, tanto che la maggior parte delle copertine dei dischi di Joni Mitchell sono immagini di suoi quadri, quindi vedete anche voi che c'è ben altro, un personaggio davvero originale. I'm not a herd animal. Non faccio parte della mandria. Sono condannata, astrologicamente parlando, a essere più profonda di quanto sia la gente normale e ho questo bisogno di essere originale, di piantare una bandiera in luoghi dove nessuno è stato. Beh, è bello poter dire una cosa del genere: sono condannata a essere più profonda di quanto sia la gente normale. Astrologicamente lei nasce il 7 novembre del 43, quindi Scorpione. Si chiama Roberta John Anderson. È una bambina un po' solitaria, è figlia unica, non ama molto le altre bambine e comincia, per esempio, già a odiare le bambole. I wanted brothers. Volevo dei fratelli e mi è sempre piaciuta l'idea di stare con gli altri. Mi è sempre piaciuta la compagnia degli uomini. Li trovo solo un po' privi di immaginazione. Non a caso ho avuto amici durante l'infanzia che poi si sono rivelati essere gay, quindi senza l'ossessione dei ruoli. Ma a parte gli amici, il primo vero amore della vita di Joni Mitchell è quello per la pittura. Prima ancora dei suoni ci sono colori e immagini, tele e pennelli diventano i suoi giochi preferiti. In seconda elementare ho capito di essere un artista. Ho capito che in questa cosa ero al di sopra della media, che disegnavo meglio di tutti. E questo mi ha dato molta fiducia in me stessa. Ero brava a fare qualcosa. Ho creato una distanza fra me e la scuola, che ho riempito di disegni di palme, di beatniks col giubbotto, di cose buffe. Ma la vita di Joni subisce un brusco arresto quando si ammala di poliomielite a 8 anni e per colpa della malattia trascorre molto tempo in un letto d'ospedale con la terribile prospettiva di non poter più camminare. Sembrava che non avrei potuto camminare mai più. Sono sopravvissuta alla polio e questo mi ha costato molto impegno. Nessuno credeva che ci sarei riuscita. Ma Johnny guarisce, anche se qualcosa è cambiato in lei per sempre. Non può essere diversamente con una malattia così grave che la blocca in ospedale da sola, in attesa delle sporadiche visite dei genitori, in un periodo in cui non c'erano la TV, il tablet, i videogiochi. Insomma, il tempo non passa mai, puoi solo pensare, rimuginare, sperando di tornare presto a una vita normale. Come risultato della mia malattia e di tanti trasferimenti, ho dovuto sviluppare una vita interiore molto forte. Era difficile trovare amici, soprattutto amici creativi con cui giocare. Il mio migliore amico era una specie di genio del piano, e io avevo l'abitudine di saltare e ballare nella stanza mentre lui suonava pezzi molto complessi di Bach e Mozart. Quindi, grazie a lui, inizialmente, mi sono avvicinata alla musica classica. Nelle lunghe giornate in ospedale, Johnny scopre che cantare l'aiuta per far passare il tempo. Così, quando guarisce, decide di frequentare il coro della chiesa, fuma la sua prima sigaretta, che è un'abitudine che non si è mai più interrotta. Prima sigaretta fumata a 9 anni, mi ha battuto. Tanto che nella maggior parte dei quadri e delle fotografie che la ritraggono, lei è con una sigaretta in mano. Per me è un'abitudine basilare. Ci sono persone che bevono o che fanno altro, ma per me il fumo è stato un buon compagno. Ho un sistema nervoso molto delicato, ipersensibile, e fumare mi permette di concentrarmi meglio. E la Mitchell non si limita a frequentare il coro, prende anche lezioni di pianoforte. La sua testa comincia a riempirsi di suoni, compone delle melodie, e naturalmente la sua insegnante, come quasi sempre accade, non sa riconoscere l'originalità della bambina. Invece di incoraggiarla, non capisce come si possa voler suonare orecchio quando ci sono maestri come Bach e Beethoven da copiare. Insomma, non è di grande aiuto e di grande incoraggiamento. Il mio amore per il piano è stato rovinato a 8 anni da una maestra che mi picchiava sulle nocche con il righello perché componevo. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Johnny Mitchell, un artista, una donna dalla personalità veramente complessa, e siamo partiti da una giovinezza con un grave colpo d'ala negativo, una malattia gravissima come la polio, e quindi prove difficili da superare. Bene, se da un lato il dolore genera, come sappiamo, una sensibilità particolare, dall'altra il dolore genera anche persone più forti, piene di vita e di energia, come la nostra protagonista Johnny Mitchell. But I have a tremendous will to live. Ho una incredibile volontà di vivere, una grande joie de vivre, alternate a una certa irritabilità. In effetti pare proprio che la Mitchell abbia sempre avuto un carattere molto particolare, e d'altra parte solo forse con un carattere così si può sopravvivere. Figlia unica di un ufficiale dell'aviazione e di un insegnante, cresciuta in una zona rurale del Canada, cioè nel mezzo del nulla, la polio a 8 anni, insomma è difficile farcela. Per il resto però lei è una ragazza come le altre, con un'adolescenza come le altre. In my teenage years. Da adolescente, quando il rock and roll stava nascendo, adoravo ballare, vivevo per quello. Tanto che indussi la scuola ad aggiungere un nuovo corso di ballo, in modo da poter ballare 3 volte alla settimana invece di 2. Durante il liceo comincia a scrivere poesie, questa volta, per sua fortuna, a differenza della maestra di piano, trova un professore che sa apprezzare la sua capacità di introspezione. Si chiama Kratzmann, questo professore. Diventerà una figura importante nella vita di Joan, l'aiuta a approfondire il suo lavoro, a raffinare la scrittura, a credere nel suo talento, e lei dedicherà a questo professore il suo primo disco, Song to a Seagull, per avermi insegnato ad amare le parole. Nel 63 Johnny Mitchell si trasferisce a Calgary, in Canada, per studiare arte al college. Le basta un anno però per capire che i corsi universitari non le servono per diventare il genere di artista che vuole, e decide di abbandonare gli studi. Nel frattempo comincia a cantare nei club della città, ha una storia con un suo compagno, rimane incinta, il ragazzo sparisce e Johnny si ritrova nella metà degli anni 60 single e in attesa di un figlio. Non semplice, peraltro impensabile per l'epoca. sperando di mimetizzarsi un po' in una grande città, si trasferisce a Toronto cercando di cavarsela da sola, perché non vuole dire ai genitori del suo stato, però fa una vita durissima quando dà alla luce una bambina, Kelly Dale, è costretta a abbandonarla in ospedale e si ritroveranno solo nel 97, 34 anni dopo. The thing that keeps getting written... Si continua a dire che io ho dato in adozione mia figlia per seguire la mia carriera. Questo non è affatto vero. Quando lei è nata non riuscivo neanche a sopravvivere. Ero poverissima. Non era possibile portarla fuori dall'ospedale perché non sapevo dove andare. Non avevo un tetto sulla testa. Non avevo un lavoro. Non avevo niente. E a quel tempo non esisteva neanche l'affidamento temporaneo. Abbandonare una figlia è un evento veramente traumatico, è il più traumatico della vita di Johnny, forse ancora di più della poliomielite, e ne parla spesso anche in molte delle sue canzoni più famose come Little Green o Chinese Café, e ha avuto il coraggio di confessare tutto questo solo dopo moltissimi anni. Dopo solo qualche settimana dalla nascita della figlia, lei riprende a cercare lavoro nei bar di Toronto ed è in uno di questi posti che conosce un cantante folk americano, Chuck Mitchell, e lo sposa. Dopo pochissimo ne prende il cognome con cui sarà conosciuta per il resto della sua vita. E per un attimo lei spera anche di poter riprendersi la figlia, ma capisce presto che Chuck non ha intenzione di occuparsi della bambina, rinuncia definitivamente all'idea. La giovane coppia si trasferisce negli Stati Uniti, a Detroit, e si guadagna da vivere suonando assieme in una serie di locali. Lei ha 22 anni, in questo periodo comincia a suonare la chitarra sempre meglio, anche grazie a incontri con altri artisti. Sono anni importanti perché le capacità tecniche di Johnny si vanno affinando sempre di più. Una delle sue caratteristiche è proprio quella di riuscire a creare armonie molto complesse alla chitarra. Anche per questo è veramente difficile rinchiuderla nel ristretto recinto della musica folk. In questi anni lei si sente più sicura di se stessa, inizia a comporre canzoni con i suoi testi e intanto, continuando a suonare nei locali, impara anche a intrattenere la gente tra una canzone e l'altra. Insomma, si trasforma in un artista completo, proprio come quelli che escono oggi, un artista di successo. E di questo periodo c'è The Circle Game, che è una delle prime canzoni che contribuiscono a farla conoscere in giro. Come succede molto spesso, i grandi cambiamenti provocano un urto al quale le coppie spesso non sanno reagire, non sanno sopportare quest'urto. Così Johnny decide di lasciare il marito, forse pare addirittura durante una notte senza dir niente, stabilendo un precedente importante per le sue scelte future: rinunciare all'amore pur di poter compiere un passo in avanti nel suo percorso artistico. Forse non ho mai amato. Temo sia questa la verità. Ho trascorso tutta la mia vita sulle nuvole. Sì, c'è l'amore romantico, ma è un'altra cosa. Sono una grande fan dell'amore romantico. È uno scherzo della natura, un gioco, un divertimento. Ma l'amore vero è la cosa più importante che esista. Il falco e il gabbiano. Stiamo parlando della grande Joni Mitchell, la cantante canadese che ha segnato la musica americana negli ultimi anni. Per molte persone è una specie di mito. Mi ricordo io quando l'ho incontrata, io ero con la mia pianista Stefania Schiavone, che stava svenendo, e io ero quello che ha scattato la foto a Stefania Schiavone e Joni Mitchell, perché per lei, donna musicista, insomma, era assolutamente un personaggio inarrivabile. Eppure, soprattutto in Europa, lei ha conosciuto vicende alterne, forse perché la sua musica è un po' troppo sofisticata per essere compresa da tutti, forse perché il desiderio di spostare i propri limiti sempre più avanti e di cercare una musica complessa hanno creato una sorta di distanza tra Johnny e la popolarità. Però è un problema che in fondo non sembra interessarla più di tanto. Ci sono due possibilità. Puoi rimanere sempre la stessa artista e proteggere la formula che inizialmente ti ha portato al successo, e ti crocifiggeranno dicendo che fai sempre le stesse cose. Oppure, se cambi, ti crocifiggeranno perché sei cambiato. Ma fare sempre le stesse cose è noioso, mentre il cambiamento è interessante. Quindi, fra le due possibilità, preferisco essere crocifissa per il cambiamento. Quelli sono i miei eroi, quelli che cambiano molto. E negli anni la musica della Mitchell è cambiata moltissimo se si pensa alle sue prime canzoni più assimilabili alla musica folk. Eppure, nonostante questa produzione così variegata, per molti è rimasta la ragazza timida dai lunghi capelli biondi vestita con i camicioni bianchi che cantava accompagnandosi con la chitarra. What is so confessional? I'm sad? Perché mi definiscono cantante confessionale? Sono triste? Non siete mai stati tristi? Cioè, credo che il mio segreto più grande sia stato quello di essere diventata madre fuori dal matrimonio. Ma quando alla fine questa cosa è uscita fuori, ce n'erano già così tante. Ma torniamo alla nostra storia. Siamo arrivati al 67, dopo aver lasciato il marito, Johnny si trasferisce a New York e inizia la sua vera carriera musicale. Conosce Elliot Roberts, che resterà il suo manager per il resto della sua vita, e soprattutto durante un breve tour in Florida incontra David Crosby, che rimane molto colpito dal talento della giovane autrice. Era travolgente. Io stesso sono un compositore, ma vedere qualcuno arrivare a fare le cose a quel livello mi lasciava a bocca aperta. Sai com'è? Uno lavora tutta la settimana una canzone, arriva e le dice: tesoro, senti cosa ho fatto. E lei ti dice: carina, David, guarda, io invece ho scritto queste qui questa mattina. E te ne canta tre, e sono tutte fantastiche. E tu ti senti... E quando Crosby torna in California, Johnny lo segue e finalmente firma il suo primo contratto con la Reprise Records, una delle etichette della Warner Bros. Nel 68, con l'aiuto di Crosby e Stills, Johnny incide il suo primo disco, Song to a Seagull. Solo un anno dopo esce Clouds, con canzoni come Both Sides Now, che diventa un classico, ripresa perfino da Frank Sinatra. E intanto Johnny inizia una storia con Graham Nash, che ha lasciato gli Hollies per riunirsi a quelli di prima, Crosby e Steele, e formare uno dei gruppi più famosi della West Coast, Crosby, Steele e Nash. E poi arriverà anche Neil Young. Sentiamo Nash che ci racconta il suo primo incontro con Johnny durante un tour. The Hollies were playing in Ottawa, in Canada, on a gig. Ero insieme agli Hollies, stavamo suonando in Canada. Dopo lo spettacolo facemmo un... sapete com'è? Il promoter diede un piccolo party e vidi questa ragazza bionda seduta in un angolo della stanza. Cercavo di incrociare il suo sguardo, ma non avevo idea di chi fosse. Il mio manager continuava a parlarmi nell'orecchio e credevo che cercasse di dirmi il nome del produttore o il nome di sua moglie o di sua figlia. Fino a quando a un certo punto gli dissi: stai zitto, lasciami in pace che sto cercando di richiamare l'attenzione di quella ragazza. E lui mi rispose: accidenti, se solo mi ascoltassi. Ti sto dicendo che si chiama Johnny Mitchell e ti vuole conoscere. Succede così a volte. Questo è un periodo felice per Johnny. L'album Clouds le regala il primo dei suoi 8 Grammy Award per la migliore performance folk, e poco dopo esce un nuovo album, Ladies of the Canyon, con una delle canzoni più famose di Johnny Mitchell, Woodstock, scritta in onore del grandioso concerto che si tenne nell'agosto del 69 nei campi, quelli affittati dall'agricoltore Max Yasgur. C'erano tutti i più grandi cantanti dell'epoca a Woodstock, ma non Johnny Mitchell. Because I was one of the many that were thwarted. Ero una dei tanti che non riuscì ad arrivarci. Woodstock era il posto dove tutti i ragazzi volevano andare. Invece io arrivai all'aeroporto per partire insieme ai Crosby, Stills e Nash una domenica sera. Avrei dovuto suonare lì, ma fu una catastrofe. Il loro manager, David Geffen, mi aveva fissato una partecipazione al Dick Cavett Show per il giorno dopo e mi disse che non avrei fatto in tempo ad andare e tornare. Quindi mi riportò nell'albergo dove avevamo una suite e seguimmo Woodstock in televisione. Io ero quindi uno dei tanti ragazzi che non sono riusciti ad andare, e così ho scritto dal punto di vista di un ragazzino che avrebbe voluto essere lì. Probabilmente, se fossi stata dietro le quinte a Woodstock, con tutti i tagliagole e i maniaci dell'ego che di solito popolano il backstage, non avrei avuto quella prospettiva. Alla fine, è stata una buona cosa che io non ci sia andata. E la canzone diventò subito famosissima anche e soprattutto grazie all'interpretazione di Crosby, Stills e Nash, che la trasformarono in uno dei capisaldi rock dell'epoca. Sentiamo come ci racconta l'episodio proprio Graham Nash. Ascoltammo la canzone e guardai Steven Stills. Io so quando Steven sta pensando e in generale so cosa sta pensando. E quando Johnny arrivò alla fine della canzone, Steven disse: ci puoi dare questa canzone? E ti spiace se la cambiamo un pochino? È stato Steven che ha riconosciuto la grandezza di questa canzone. È stato Steven che ha trasformato la melodia di Johnny, che era inizialmente un po' diversa, in una grande canzone rock. Sentite già la differenza dai primi accordi con Vusto, che Johnny Mitchell entra comunque a pieno titolo nell'Olimpo della musica californiana del periodo a cavallo tra gli anni 60 e i primi anni 70. È un mondo popolato da gente come Crosby, Stills, Nash e Young, poi James Taylor, i Jefferson Airplane, i Beach Boys, i Grateful Dead, gli Eagles, artisti peraltro molto legati tra loro, tant'è vero che spesso partecipano ognuno alla registrazione degli album dell'altro. Johnny, per esempio, canta spesso nei dischi di James Taylor, con il quale ha un brevissimo flirt, tra l'altro. Partecipa al grande If I Could Only Remember Your Name di David Crosby e a Tapestry, album mitico di Carole King. Nel 76 partecipa all'ultimo famosissimo concerto di The Band di Robbie Robertson, quel concerto che poi Martin Scorsese celebrerà con il suo film The Last Waltz. Stiamo parlando della storia della musica, di quella musica e anche della storia di un'epoca, quella della cultura hippie, anche se Johnny non si sente esattamente parte di quel mondo. Le uniche cose hippie che mi piacevano erano la moda e il simbolo dell'arcobaleno. Ma la maggior parte dei valori degli hippie mi sembravano stupidi. E l'amore libero, dai. Era una cosa eccitante e giusto per i maschi. Mai stata una dea hippie. Se mi metti su un piedistallo non potrai mai rispecchiarti nelle mie canzoni. Le collaborazioni con i grandi nomi di quell'epoca non le impediscono di continuare a lavorare. Sta per uscire un nuovo disco che si chiamerà Blue. La fine della sua storia di 2 anni con Graham Nash è alla base di molte canzoni di quell'album e, come molti di voi sanno, in inglese blue non definisce solo il colore, ma anche uno stato d'animo molto preciso fra tristezza, dolore, la saudade dei brasiliani, insomma. E così la forza di Johnny Mitchell diventa sempre più evidente album dopo album. Blue ha un grandissimo successo, però è con Court and Spark, il suo sesto album, quello del 74, che lei raggiunge anche il successo commerciale. Secondo posto nella classifica americana, doppio disco di platino e l'album che entra nella lista dei 500 album migliori di sempre, secondo Rolling Stone, anche se la leggenda racconta che Bob Dylan si sia addormentato mentre Johnny glielo faceva ascoltare. E gli arrangiamenti sono sempre più raffinati, la voce è cambiata, comincia a rinunciare agli acuti per esplorare toni più gravi, forse anche grazie alle sigarette. A partire da Court and Spark lei prende l'abitudine di suonare con molti musicisti jazz, come nel celebre concerto per il doppio album dal vivo, quello che si chiama Shadow and Light, in cui condivide il palco con gente come Pat Metheny alla chitarra, col grande Jaco Pastorius al basso. Ne parleremo un giorno di Jaco Pastorius, ve lo prometto. È un grande musicista jazz, tra l'altro Charlie Mingus, che chiede a Johnny di fare un album assieme. Il progetto viene realizzato nel 79, appena un mese prima della morte di Mingus. Nell'album assieme a Johnny suonano Herbie Hancock alle tastiere, Wayne Shorter al sax, Peter Eskin alla batteria e Pastorius al basso. Una bella band, niente male. C'è chi storce il naso di fronte a queste collaborazioni, ma sono solo la prova che da vero artista il talento di Johnny non conosce confini. La mia casa discografica non voleva che io lo facessi. Dicevano: se lo fai sarai scomunicata, il che è accaduto. Non dai grandi però, perché sanno cosa vuol dire prendersi un rischio. They're risk takers. E negli ultimi decenni lei ormai si guadagna il ruolo della grande signora della musica americana, un riferimento per molti musicisti, da Prince a Rufus Wainwright, a Janet Jackson, a amici illustri come Jack Nicholson, come Peter Gabriel, che non può non notare un talento del genere, non è mica Phil Collins, e fino a Bill Clinton, che le confessa di avere chiamato la figlia Chelsea in onore della canzone Chelsea Morning, Due anni fa Joni Mitchell ha compiuto 70 anni, in quell'occasione Toronto le ha dedicato una celebrazione a cui hanno partecipato molti grandi artisti. Poi ha scelto di vivere molto tempo da reclusa, denunciando di tanto in tanto un certo disgusto nei confronti dell'attuale business musicale, ma va, se lo può permettere, perché sono in pochi coloro che hanno saputo attraversare 50 anni di musica mantenendo uno spirito integro e allo stesso tempo avventuroso. L'ispirazione non è una cosa che resta a lungo negli artisti, a volte è pochissimo. Così, quando sei nel gioco, devi cercare di mantenerla il più a lungo possibile con qualcosa. Lo vedi quando c'è qualcuno che fa un album meraviglioso, forse due, ma poi niente più. Avere il dono di restare in pista per così tanto tempo è una cosa molto rara. Ci sono persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala, oppure 100 fatti di canzoni, progetti, musica, lotta per la propria autonomia e lotta per la propria vita. Persone che hanno avuto cadute, ma soprattutto grandi risalite. Se volete mandarci i vostri commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, fatelo, scrivete al falcoelgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina su radio24.it, venite a trovarmi, a trovarci nei miei e nei nostri social, insomma, se volete, sapete arrivarci. Ciao, a domani.